Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. I Padri Eterni, come ogni domenica. Salve, ben ritrovati da Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Fede, buona domenica. Eccoci qua, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri. Radio24.it, il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast. Padri Eterni @radio24.it se volete scriverci. Tutto ciò anche attraverso la nostra pagina Facebook, I Padri Eterni di Radio 24. Matteo, sono tornato, ho fatto la settimana di trekking col figlio, come ti avevo anticipato. E... Ho visto le vostre bellissime fotografie di tutto il percorso. Sì, ho lasciato le rotule là, tra l'altro. Quindi, è stata una bellissima esperienza. Insomma, ovviamente poterlo fare con un figlio adolescente. Apprezzi i silenzi, che è una cosa strana, no? Che si ha sempre paura del silenzio con i propri figli, invece mentre si fa la stessa fatica nello stesso ritmo, il silenzio prende veramente un valore tutto nuovo. Apprezzi ovviamente le parole nei momenti di chiacchiera, apprezzi la fatica che fai insieme, e credo che insomma dedicheremo una delle prossime puntate proprio a questo, al camminare insieme ai propri figli, perché è un'esperienza da provare. E ovviamente ad ogni età ci sono poi risorse diverse, no? che vanno a unire questa relazione o anche a distaccare, perché magari ci sono anche momenti di rottura, però è assolutamente da fare come esperienza. Io, guarda Fede, invece ho fatto un pezzetto di settimana come ragazzo padre, mm-hmm. cioè solo a casa con le bambine, e un altro pezzetto come uomo solo e senza figli, e devo dire che consiglio entrambe le esperienze, potendo, magari così ravvicinate, perché sia modo di apprezzare, come dire, entrambe le situazioni. Tante storie anche oggi ai Padri Eterni. La prima parla proprio dell'oggi e di quei centri estivi di cui tanto abbiamo parlato. Centro estivo che non c'è, questo è il cuore della storia che andremo a raccontare fra pochissimo. I centri estivi, appunto, in tante città c'è stata la riapertura con regole particolari, no? Piccoli gruppi, un educatore ogni 6-7 bambini, regole diverse, anche direzioni un po' diverse che hanno preso questi centri estivi, che comunque insomma una risorsa importante anche per dare possibilità alle mamme e ai papà di andare al lavoro in serenità, ma anche per dare alle bambine e bambini la possibilità di socializzare. Però in alcuni comuni, in alcune situazioni, questi centri estivi non si capiva bene se appunto potessero aprire o meno, in che modo, e quindi c'è un papà, un amico dei Padri Eterni, perché già è stato nostro ospite, che ha avuto un'idea molto semplice, quello di andare davanti alla propria scuola in un cortile e mettersi a giocare. Diamo il benvenuto ad Andrea Visconti. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora Andrea, ve lo ricordate, l'abbiamo avuto ospite più volte, insomma la prima volta con il famoso video, il cartone animato, per spiegare il senso del fallimento della propria startup alle figlie. Andrea, questa volta invece ti sei arrabbiato, vero? Perché la scuola non riapriva, perché il centro estivo non c'era, e quindi com'è andata? Giorgio, ogni volta che ci sentiamo perché mi ha combinato una delle mie. Esatto. Questa volta sì, mi sono un po' arrabbiato, cioè più che altro mi sono sentito un po' frustrato e preso in giro dal fatto che non si capisse come mai in giro fosse tutto aperto e invece per le scuole, per i bambini, ci fossero delle regole così particolari, così stringenti. Ho provato in tutti i modi, con i parlamentari, col comune, con la regione, con la scuola dei miei figli, a capire se ci fosse la possibilità di aprire almeno appunto per i centri estivi, almeno per fare qualche giorno insieme, soprattutto per i miei figli fanno la materna, per chi finiva il percorso materna e l'anno prossimo inizierà a fare le elementari, se ci fosse la possibilità di vedersi almeno qualche giorno per stare un po' insieme, per chiudere un percorso che comunque per loro è un percorso importante. E non c'è stato verso, non c'è stato verso in nessun modo. Addirittura a un certo punto mi sono reso disponibile e ho detto: tanto io guardo i miei figli tutta la mattina, se è un problema di affidabilità, di che manca il personale, che c'è, serve qualcuno che si prenda la responsabilità, me la prendo io, tanto che sono sempre un po' il parafulmine di tutti, e neanche quello è servito. E allora a quel punto ho detto: senti, ma sai che c'è, ma io me lo faccio da solo. Qui ho fatto un post sui social, su Facebook, sulla mia pagina Facebook e sul mio profilo Instagram, in cui raccontavo un po' questa vicenda, e un po' di persone hanno iniziato a rispondermi: ma io te lo manderei, peccato che non sono di Torino, eccetera. A un certo punto invece un papà ha detto: io ci sono di Torino, dall'altra parte della città peraltro, però ha detto: se tu lo fai io vengo a darti una mano e porti i miei figli. E per cui dal giorno dopo abbiamo cominciato. Il primo giorno eravamo 9 bambini e 2 papà, poi il secondo giorno eravamo in 12 e poi alla fine siamo diventati 19. Andrea, senti, la tua esperienza ci insegna, fra le altre cose, no, che il tempo non solo si libera, ma a volte anche si crea. Quindi tante volte magari basta un minimo di spirito di iniziativa per riuscire a correggere certe storture. E con questo, naturalmente, insomma, non voglio dire che i padri si devono far carico di correggere, come dire, dei disservizi locali o del governo. Ma tu ti sei chiesto, come dicevi prima, perché sia stato riaperto tutto, oppure per esempio il tuo amato calcio, no? Ma non le scuole e non la possibilità dei centri estivi. E tu ti sei dato una risposta che è una risposta importante, ma anche avvilente da un certo punto di vista. Qual è? Beh, infatti io sono dell'idea che non sia giusto che siano i padri o comunque le famiglie in generale a sopperire alle mancanze dello Stato in questo caso, ma a prescindere della scuola. Non dovrebbe essere necessario che i due padri mollino il lavoro per poter permettere ai figli e ai loro compagni di giocare insieme, di vedersi, di fare quello che forse è anche giusto e normale che facciano i bambini della loro età, che possano continuare a crescere e a relazionarsi, perché poi parliamo tanto anche dell'importanza di stare a socializzare al parco, all'aria aperta, giocare con la terra, sporcarsi le mani. Boicottiamo la tecnologia da anni dicendo che è il male assoluto, e poi però quando ci siamo trovati in uno stato di emergenza, improvvisamente la tecnologia non era più il male assoluto e abbiamo costretto i bambini a stare 6-8 ore davanti a un computer, e poi però quando c'era la possibilità di ricominciare a rivedersi in presenza, in sicurezza ovviamente, però in piccoli gruppi, al parco giochi, all'aria aperta, insomma, così come lo facevamo noi adulti, lo possiamo tranquillamente ma sì, certo. Poi insomma sappiamo che insomma sono tante, no, le questioni aperte su questo discorso, il discorso centri estivi, il discorso scuola, ancora bene non si sa quello che accadrà da settembre. È anche vero, Andrea, che tu insomma te lo puoi permettere anche, no, di mollare il lavoro per qualche giorno e poter fare questa cosa, che è anche un privilegio da un certo punto di vista. Prima di salutarci, cosa ti sta lasciando da papà questa micro esperienza che stai vivendo ogni mattina al parco con tutti questi bambini e bambine? Ma mi ha lasciato tantissimo, anzi mi ha lasciato molto di più di quello che io posso aver lasciato loro. Già solo il fatto che dei ragazzini conosciuti un'ora prima si siano seduti, a un certo punto abbiamo fatto dei giochi anche tra virgolette più calmi, no? Un po' più di logica e di creatività. Uno di 10 anni che gli ho chiesto com'era andata quella giornata e mi ha risposto: è stato il giorno più bello di tutti. E quindi non tanto il fatto che abbiano ringraziato me, ma il fatto che avessero qualcuno da ringraziare per il tempo che gli è stato dedicato, per me quella è stata l'unica soddisfazione di cui forse vale la pena. Andrea, grazie davvero. Ricordiamo Andrea Visconti, lo trovate su tutti i social appunto per condividere questa esperienza, per saperne di più. Grazie ancora, ciao e buona domenica. Grazie a te Federico, ciao Matteo, ciao a tutti. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i padri e... Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Padri Eterni. Non fraintendermi, io sarò sempre in fondo. E adesso andiamo nel verde, Matteo, sei pronto? Sono prontissimo. Andiamo nel verde, ma andiamo anche nel cibo, no? In un certo senso, quindi sono tutti temi che ci interessano molto. Guarda, stavo riflettendo proprio in questi giorni, appunto, come ti ho detto, camminando con mio figlio, perché comunque attraversi l'Italia, della provincia, dei piccoli borghi, dei sapori e delle cose meno note. E questo è il cuore anche di un programma storico della televisione italiana che è Linea Verde. E proprio oggi parte la edizione estiva, Linea Verde Estate, su Rai 1 alle 12:20. Quest'anno ci sono due conduttori nuovi, sono due amici, Angela Raffanelli e Marco Bianchi, chef e non solo, a cui diamo il benvenuto qui ai Padri Eterni. Ciao Marco. Ciao ragazzi, sono molto emozionato per questo esordio, insomma è una grande opportunità e felice di portarvi veramente a tavola nelle vostre case, quella che è questa bellissima Italia, che sto anch'io riscoprendo. Infatti, però Marco, ti chiamiamo qui nelle vesti di chef, di conduttore televisivo, ma anche di padre, no? Perché appunto tu hai anche questo mestiere, no? Che è un mestiere che ci accomuna. Ma secondo te un programma come Linea Verde Estate, cosa trasmette proprio ai più giovani, e qual è il ruolo che noi genitori, noi padri, possiamo, dobbiamo avere per educare al bello e al buono, che sono due parole a cui tu tieni molto? Guarda, io ho iniziato proprio così anche con mia figlia, raccontandogli questa bellissima opportunità che è quella di riscoprire un paese che è pieno veramente di tesori. E spesso sono tesori nascosti e poco raccontati, un po' per una questione anche di, diciamocelo, di budget delle stesse piccole aziende, di un artigiano locale, e a volte perché invece non si ha ancora conoscenza, non hanno ancora i mezzi, diciamo, per poter divulgare quelle che sono le loro abilità. E in questo caso parliamo dei social network. Io mi farò un po' anche portavoce di questa maestria nostra nazionale attraverso anche tutta la mia rete, la mia community. Come figlia, credo che la cosa più bella sono gli occhi che mi brillano quando le racconto quello che sto vedendo con questa esperienza. Quindi mi auguro anche di arrivare anche agli occhi di tutti, al cuore di tutti, quando vedrete appunto le varie puntate. Marco, senti, ti faccio una domanda da padre, sperando di poter dare un utile consiglio anche ai padri che ci ascoltano, no? Tu, come diceva Fede, sei prima di tutto uno chef, sei una persona che ha un rapporto viscerale con il cibo, sei un cultore dell'alimentazione. Come si fa a educare i nostri figli a una maggiore curiosità alimentare in un momento in cui spesso, no, i gusti sembrano essere più omologati, quantomeno quelli di certi approcci, diciamo così, industriali all'alimentazione? Come si fa a tenerli svegli e attenti da questo punto di vista? Guarda, hai detto la cosa giusta, curiosità, cioè bisogna indurli veramente a farsi domande e soprattutto a testare, ad assaggiare, a vivere insieme. Cioè, dobbiamo imparare a far capire loro che esistono delle esperienze sensoriali, tattili, visive, che sono fuori dal mondo se appunto fatte insieme. Quindi mai intanto lasciarli da soli alla sprovvista, ma dar loro quelli che sono gli strumenti giusti per farlo. La mia esperienza mi ha portato intanto a iniziare a fare una spesa insieme a mia figlia, quindi la spesa va condivisa, senza la fretta, senza i minuti contati, va condivisa e va assaporata. Assaporata vuol dire proprio anche nel vero senso della parola, quindi assaggiare mentre si fa la spesa, mentre si acquistano anche i prodotti, capire che cosa possiamo poi fare con loro, cosa possiamo preparare, quindi liberare la fantasia e farlo insieme ai bambini stessi. L'altra cosa che poi mi ha insegnato in Linea Verde, ad esempio, è quella di raccontar loro da dove arriva un determinato prodotto, quindi raccontare insieme a loro il territorio, e questo si può fare attraverso una bella gita, attraverso un momento che in qualche modo si fa raccontare anche, e questo aiuta sicuramente a entrare nelle radici profonde del prodotto stesso. Anche perché tantissime di queste realtà, ma che tu anche stai visitando e raccontando, ti danno spesso anche la possibilità di toccare con mano, no? Di sperimentare cosa vuol dire fare un formaggio, cosa significa vero raccogliere un frutto. Quindi c'è anche questa possibilità di mettersi in gioco e mettere in gioco abilità che solitamente, magari se vivi in città, sì, non hai possibilità di farlo. Guarda, io ho iniziato con mia figlia visitando fattorie didattiche, Linea Verde mi ha portato a essere protagonista proprio in questo momento di quello che è l'esperienza che un bambino può vivere. Infatti mi sono sentito un po' come un bambino felice al Luna Park, in questa linea verde estate. Ho toccato con mano, nel vero senso della parola, quella che vuol dire fare una mungitura, preparare del formaggio, raccogliere frutta e verdura in un frutteto, in un orto, e poi lavorarlo direttamente in cucina. Quindi è il consiglio più bello che posso dare a tutti: toccare con mano e vivere in prima persona l'esperienza. Oggi alle 12.20 su Rai 1, Linea Verde Estate con Marco Bianchi e Angela Raffanelli. Grazie davvero Marco e in bocca al lupo per questa avventura. Ti aspettiamo più tardi su Rai 1, grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ancora padri e figli insieme in giro per questa bella Italia, questa volta non a piedi ma in bicicletta, o meglio in tandem. Questo è il cuore di un progetto che si chiama Pedalabile e sono sulla via Francigena. Credo che in questo momento siano nella tappa che li porterà verso Siena. I protagonisti sono Roberto dalla Pellegrina insieme al figlio Riccardo, appunto stanno percorrendo un pezzo della Francigena in tandem. Ciao Roberto, buona domenica, grazie per essere qua con noi. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, che cos'è Pedalabile? Allora, Pedalabile è un progetto nato, diciamo, abbozzato un paio d'anni fa, quando per curiosità personale ho trovato un mezzo che poteva essere adatto appunto a Riccardo. Riccardo ha una disabilità emiplegico, psicocognitiva, e la grossa passione per lo sport, lui è un nuotatore ma anche la passione per la bicicletta, mi ha fatto cercare e trovare questo fantastico tandem. Non è il classico tandem che chiunque può pensare, ma è un tandem che ha una seduta per Riccardo anteriore, quindi una specie di sdraietta appoggiata sulla ruota anteriore, dove lui ha la sua pedalata indipendente dalla mia e io, posizionato sul sellino, manovro semplicemente questa ruota. Quindi pedaliamo in due, lui però ha il grande beneficio del vento in faccia. Ecco, questo è un po' il nostro motto che ogni tanto utilizziamo: il vento in faccia è uguale per tutti, e anche in questo caso più che mai, nel senso che Riccardo gode proprio di tutte quelle che sono le sensazioni del vento in faccia durante la pedalata. E il progetto quindi era nato, era stato abbozzato un paio d'anni fa da un mio pensiero, poi al posto di farlo restare, diciamo, quello che era un'idea personale, privata, ho pensato alla fine dell'anno scorso di costituire questa, di formare questa associazione appunto che si chiama Pedalabile, per far sì che questa, diciamo, opportunità possa essere data a più persone. Quindi le finalità principali del progetto sono l'inclusione sociale attraverso lo sport, l'interazione sociale attraverso lo sport, e soprattutto, essendo questo un tandem, quindi avendo necessità di due persone, un'altra delle finalità è quella di riuscire a coinvolgere più persone a fare con l'altro, stare con l'altro e dare all'altro. Quindi possibilmente il volontario che vuole accompagnare la persona con disabilità e che possa utilizzare questo mezzo per un'esperienza breve o lunga che sia, e creare questa sorta di confronto. Roberto, senti, sì. ma ti emoziona di più la possibilità di passare del tempo con tuo figlio solo voi due, no? Come dicevamo prima, questa condivisione, questo poter dedicarvi del tempo proprio solo per voi, questo poter risaldare il rapporto anche, oppure sei più emozionato per la portata simbolica di questo vostro viaggio insieme, dato che siete diventati testimonial in un certo senso, no? Certo, ma all'origine sicuramente l'emozione, l'adrenalina era quella di poter far affrontare questo viaggio insieme, io e lui. Voglio precisare che ci sono tre accompagnatori, che sono poi il mio figlio più grande, quindi il mio primo figlio, ed altri due amici che ci sostengono, sempre in bicicletta, però ci sostengono. E poi logicamente è diventata, adesso col tantan mediatico che c'è stato, che non ci aspettavamo logicamente, è diventata più l'emozione di condividere questo progetto con gli altri. Un esempio che voglio riportare è stato quello: da Massa a Lucca ci ha accompagnato l'amico Gianni, che è un ragazzo di 40 43 anni con una disabilità abbastanza importante, però con la sua e-bike ha voluto accompagnarci fino a Lucca e ci ha fatto veramente da supporto e quando siamo arrivati a Lucca l'abbiamo logicamente abbracciato e l'abbiamo ringraziato perché è stato, diciamo, il raggiungere il primo obiettivo, quindi il dire ok, la condivisione di questo progetto funziona e si può fare tanto. Poi il tantan mediatico, ripeto, sta avendo un successo pazzesco perché adesso tra la Toscana e il Lazio sono tante le associazioni che ci stanno contattando per creare una sinergia che in futuro darà sicuramente dei frutti importanti, ma soprattutto perché al nostro passaggio c'è la voglia di, diciamo così, incontrarci, parlare, che era proprio il nostro obiettivo, quindi promuovere attraverso questo viaggio le finalità, gli obiettivi di Pedalabile. Quindi insomma, per adesso siamo veramente soddisfatti, non pensavamo di riuscire ad avere il successo che stiamo avendo, insomma. Complimenti davvero Roberto, a te e a Riccardo. Ricordiamo la pagina Facebook di Pedalabile per seguirvi in questa avventura, esatto, che vi porterà fino a Roma, l'arrivo a Roma previsto attorno al 10 luglio. Grazie. 10, esattamente, venerdì 10 luglio. Perfetto, buona estate, ciao Roberto, perfetto, grazie. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Grazie. Noi ci fermiamo, è il momento delle meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Dove sei? Cosa fai? Dove vai? Come mai? È da un'ora che ti sto chiamando. Non lo so, ma con te non si sa mai perché. Non sei mai dove stavi dicendo. Dicendo, ma cos'hai? Ma cos'hai? Ma cos'hai? Buona domenica da Federico Taddie e Matteo Bussola, i Padri Eterni, ancora mezz'ora insieme per parlare di padri, per parlare ai padri, toccando temi della nostra quotidianità, come per esempio quella di condividere foto dei propri figli. Qui con Matteo ne abbiamo parlato più volte, però Matteo, tu per esempio sei molto, molto restio, insomma usi tantissimo Facebook, però raramente pubblichi foto delle tue figlie, forse mai. Forse mai, sì, esattamente. Ma come sai, il tema mi appassiona, Fede, nel senso che io credo che un conto sia la materia letteraria, quindi scrivere anche dei post sulle proprie figlie, sulle criticità che la paternità comporta, discuterne con gli altri. Altro è condividere immagini che forse dovrebbero, come dire, appartenere maggiormente alla sfera privata, ma credo che no, è proprio questo il tema di cui parleremo oggi con il nostro ospite. Assolutamente, io invece ogni tanto pubblico foto dei miei figli, però come ben sai, come ho detto più volte, ho l'abitudine di chiedo il permesso a loro di farlo, no? Che poi i no ti fanno male, c'è niente da fare, è vero che c'è, c'è il totale rispetto, lo capisci, sei lucido, però quando ti dicono no, dici vabbè, incassi, chiedere, giustamente, e via. Chiedere il permesso cambia tutto naturalmente, sì. No? Ma quei no ti mettono in difficoltà perché ti rendi conto che c'è un discorso di web reputation, come sì, la chiamano loro, di cui noi raramente teniamo conto. Sì, no, assolutamente. E questo è il tema centrale di un libro pubblicato da poco, si intitola Sharenting, genitori e rischi della sovrasposizione dei figli online, edito per Mondadori Università. Con noi c'è l'autore che è Gianluigi Bonanomi, formatore sulla comunicazione digitale ed esperto da anni, appunto, studia queste tematiche. Ciao Gianluigi, buona domenica e grazie per essere qua con noi. Buona domenica Federico e Matteo e poi a tutti gli ascoltatori. Sharenting è una parola che è un bel suono, però ha qualche conseguenza. Che cos'è di fatto? Sì, vabbè, il suono è bellissimo, ma ho dovuto anche cercare bene la pronuncia perché non sapevo se era Sharenting, è Sharenting, pare. È comunque la crasi di due parole inglesi, una share, condivisione, e l'altra parenting, genitorialità. Ed è appunto l'abitudine dei genitori di sovraesporre i propri figli online, prevalentemente con foto e video, ma poi anche con dati, informazioni private, dati personali, addirittura sensibili, cioè ce n'è di tutti i colori. Pensate anche ai genitori che raccontano nel dettaglio quando un bambino si fa male, lo portano al pronto soccorso, raccontano proprio tutto l'iter. Da questo punto di vista è un fenomeno che io stavo comunque osservando da tantissimo tempo, e devo dire che col lockdown c'è stata una recrudescenza del tutto, perché poi tutti chiusi in casa, sempre a 24 ore su 24 attaccati ai device da una parte e con i figli di fianco all'altra, c'è stata, ripeto, una recrudescenza. Poi adesso arriva l'estate, che è un altro dei momenti tipici, no? Appunto, si fa la vacanza insieme, si va al mare e viene che si fa la foto e la si pubblica, e per l'odio dei nostri figli spesso. Se posso raccontarti una cosa inquietante, una volta quando facevo giornalista informatico sono stato invitato dalla polizia postale a vedere alcune immagini trovate in database dei pedofili, e vi faccio non vi voglio raccontare i dettagli, però c'era la distinzione, mi ricordo, in questo diciamo faldone dove c'era questo pedofilo che categorizzava per esempio tutine, che ne so, spiaggia, costumini e cose ancora più inquietanti. Quindi, per dire dove possiamo arrivare, secondo una ricerca australiana, il 50% delle foto trovate nei database dei pedofili gliele forniamo noi direttamente, senza troppi problemi. Gianluigi, ma senti, posto che io, nonostante quello che ho detto in apertura, non mi sento di criminalizzare i genitori che postano foto dei loro figli online, perché credo che sia un atteggiamento quasi normale, no? Si tende naturalmente a mostrare ciò a cui teniamo, a condividere i nostri affetti. Ecco, quali pericoli si annidano in questa pratica, al di là di quell'estremizzazione grave di cui ci hai appena parlato? E soprattutto, perché ci manca la percezione che in rete siamo in un luogo pubblico? Questo è veramente il tema centrale, nel senso che io sono fermamente convinto comunque che vi sia un tema che tra l'altro gli studiosi chiamano vetrinizzazione sociale, nel senso che non sono solo i nostri figli, ma tutta la nostra vita, cioè viviamo come in un Truman Show, in un Grande Fratello. Però dal punto di vista specifico i genitori comunque si sentono più forse autorizzati a fare una cosa del genere per diversi motivi. I motivi sono magari a volte l'insicurezza del genitore che sta usando magari i figli per magari raccattare 4 like in più e quindi per avere un po' più di autostima, oppure semplicemente perché vogliono mostrare qualcosa di molto bello, come purtroppo alla stregua di un piatto che fotografi prima di mangiarlo al ristorante. Però giustamente il focus è sui pericoli, cioè si pensa prevalentemente alla privacy, nel senso io sto comunque sovraesponendo un bambino e comunque tutte le sue informazioni personali, dati privati vengono messi in piazza. Il problema è che non ci limitiamo solamente alla privacy, nel senso che io sto, ripeto, sovraesponendo un figlio, sto dicendo dove va a scuola, sto dicendo tutti gli spostamenti che fa durante la giornata, ed è al pari di quei genitori che mettono per esempio sul lunotto posteriore dell'automobile i nomi della famiglia con le foto stilizzate. Però questo secondo me è un grosso problema nel momento in cui qualcuno, un malintenzionato, può andare fuori da scuola e dire: guarda che tua mamma Gina e tuo fratello Pino ti stanno aspettando al bar e hanno detto di portarti lì. Quindi è un problema di questo tipo. Poi ci sono altre conseguenze che possono essere sicuramente l'imbarazzo dei ragazzi, che, voglio dire, se sono molto piccoli magari non comprendono, ma quando cominciano ad avere uno smartphone in mano, e le ricerche ci dicono che spesso magari prima delle scuole medie, magari si cercano e magari trovano delle cose che non gli piacciono. Un'altra conseguenza secondo me importante da prendere in considerazione è il cyberbullismo, nel senso che se noi stiamo fornendo materiale per attaccare i nostri figli perché magari siamo noi stessi ad averli messi in imbarazzo. La domanda però che mi facevi è ancora più importante: ma perché non ce ne rendiamo conto? Beh, io credo che questo sia un tema proprio addirittura, se mi permettete, di alfabetizzazione digitale, nel senso che noi non abbiamo ben compreso ancora le conseguenze dell'uso e comunque i meccanismi, le regole, la grammatica di canali di comunicazione che tutto sommato sono abbastanza giovani per la maggior parte di noi, soprattutto per i non nativi digitali, perché comunque gli smartphone e i social esistono al massimo per alcuni da 6 anni, 7 anni, 10 anni, non sono tanti nell'arco della storia dell'uomo e della vita di una persona. Quindi non abbiamo capito le conseguenze. L'altro giorno dicevo a una madre: devi, secondo me, stare attento a condividere condividere i contenuti sui social dei tuoi figli, perché ho visto tra l'altro alcune immagini che erano del bagnetto, quindi erano abbastanza pericolose, e loro mi dicevano: no, ma io tanto li limito soltanto ai miei amici di Facebook. Ho capito, ma chi sono questi amici di Facebook? Insomma, c'è ignoranza digitale sicuramente, sì. Però da un consiglio diretto a noi padri, Gianluigi, ma è proprio da non fare questa cosa, o la si può fare con certe regole o certe attenzioni? Secondo me la si può fare. Io non sono certo qua a fare il fenomeno dicendo che non esistono foto dei miei figli online. Oddio, sui social non esistono, cerco di non metterli, ma su WhatsApp sì, nel senso che devo condividere comunque con la cerchia familiare, altrimenti mi strozzano, perché poi le due bambine non possono vederle sempre. Quindi le regole secondo me sono più che altro comunque di due tipi, o di buon senso o comunque di diciamo tecniche, di strumenti. Il buon senso è: puoi anche fare la foto comunque di tuo figlio, e tu papà magari stai attento fare l'inquadratura che non mostri per esempio tutte le informazioni, oppure il viso e tutto quanto, oppure esistono delle applicazioni anche all'interno del tuo telefono che permettono l'oscuramento del volto. Però dal punto di vista anche tecnico esistono proprio delle piattaforme per lo sharing e la condivisione di contenuti familiari, quindi ci sono delle piattaforme blindate che non sono in Facebook, quindi, o in Instagram dove ne perdi il controllo, che permettono l'accesso riservato e la non possibilità di condivisione. E da questo punto di vista capisco che però possa essere un problema se c'è qualcuno che non ha ancora compreso che gli amici su Facebook non sono davvero amici, e soprattutto secondo me non abbiamo ancora ben compreso che quando inviamo una foto online ne abbiamo completamente perso il controllo. Gianluigi, grazie davvero, insomma il tema è importante, ci ritroveremo sicuramente magari con altri esempi, proprio per fare una sorta di corso anche di educazione ai padri sull'uso appunto degli smartphone e dei social nelle prossime settimane. Ricordiamo Sharenting, genitori e rischi della sovraesposizione dei figli online, Mondadori Università, scritto da Gianluigi Bonanomi, che salutiamo e ringraziamo per essere stato qua con noi. Ciao e buona domenica. A voi, ciao a tutti. Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ci avviamo alla chiusura di questa puntata, Matteo, lo facciamo con una storia a cui personalmente sono molto legato. Era il 20 marzo del 2016 quando un terribile incidente all'altezza di Tarragona in Spagna tolse la vita a 13 ragazze Erasmus, di cui 7 italiane. Io all'epoca conducevo l'Altra Europa qui su Radio 24 e l'Erasmus era pane quotidiano, no? Era la nostra bandiera, era il nostro orgoglio parlare di questi ragazzi, di queste ragazze, di questa speranza, no? Del futuro dell'Europa. E poi arrivò questo incidente. E poi abbiamo conosciuto uno dei papà, proprio qui ai Padri Eterni, il padre di Elena, Gabriele Maestrini, con lui siamo rimasti in contatto, e lui continua giustamente a cercare una verità, una giustizia che non c'è, che non le riporterà Elena, non riporterà Elena alla famiglia, però come dice sempre, vogliamo che altre ragazze e altri ragazzi non debbano rischiare una sorte simile. Queste settimane è uscito anche un libro intitolato Il sogno infranto di Elena Maestrini, disponibile negli store digitali, scritto da una giornalista, da Giulia Bosch. Ma con noi c'è proprio Gabriele, perché volevamo capire con lui come sta andando avanti questa battaglia appunto per avere una verità. Ciao Gabriele, ben ritrovato, grazie per essere qua con noi. Grazie a voi, buongiorno. Come stai? Come state? Beh, diciamo, si va avanti, i giorni passano, i mesi passano, gli anni passano, e siamo a più di 51 mesi da questa tragedia e di fatto ancora non si è aperto neanche un procedimento nei confronti dell'autista. Gabriele, faccio la domanda al padre, ma tu stai cercando la verità perché? Prima appunto parlavo di senso di giustizia, non credo che sia senso di vendetta, no? Non è quello che stai o quello che state cercando. Ma noi cosa stiamo cercando? Stiamo cercando di ottenere una verità di questa assurda tragedia, perché è palese che la responsabilità sia stata dell'autista, però riteniamo che ci siano delle criticità con cause morali o materiali che hanno portato a questa tragedia. Morali possono essere da chi ha organizzato questa gita culturale, materiali perché comunque i sistemi di sicurezza passivi dell'autostrada erano insufficienti per il tipo di classificazione che può avere quella strada, oltre a altre responsabilità anche del datore di lavoro, che di fatto questo autista aveva sicuramente fatto più ore del dovuto e quindi era diciamo già sofferente sotto un profilo prettamente fisico per le ore che aveva sostenuto. Quindi questo è, vogliamo che venga fuori questa verità, perché poi dalla verità dovrebbero uscire, l'intelligenza dell'essere umano è quella di cogliere quegli aspetti positivi, cioè riuscire a capire quali sono state le cause e provare a correggerle, cioè il fatto che comunque i nostri giovani debbano essere tutelati in modo migliore, questo è il minimo che vogliamo. Ma è questo, Gabriele, ma diciamolo con chiarezza, cioè questa battaglia, oltre che un tentativo di ripristinare la verità, oltre che per risarcire un dolore personale che non è risarcibile, si porta avanti soprattutto per cercare di porre un problema, per fare in modo che magari, come tu dicevi, possano essere applicati dei correttivi, delle misure di sicurezza maggiori nei confronti di tutti i nostri figli che studiano all'estero o di tutti gli altri studenti Erasmus, no? Questa sarebbe la più grossa soddisfazione, perché l'altra soddisfazione è che Elena ormai non ritorna più, però il fatto di poter migliorare la sicurezza dei nostri giovani, cioè, già per noi sarebbe un grossissimo, una grossissima soddisfazione, perché comunque significa che questa tragedia potrà aiutare, diciamo, nel futuro chi farà queste esperienze di vita, ma non soltanto di Erasmus, anche nelle gite, diciamo, scolastiche o quelle che possono essere. Ci auguriamo di arrivare, diciamo, a un procedimento penale. Quello che ci lascia un po' di amarezza è il fatto che siamo stati quasi abbandonati dopo il primo periodo, diciamo, dove i mass media erano interessati, la parte politica italiana era interessata a questa tragedia, di fatto non c'è nessuno che poi ci sta dando una mano o quant'altro. Riteniamo che la magistratura italiana poteva sicuramente aprire un'inchiesta parallela per mantenere comunque un'attenzione, diciamo, a questa tragedia. Gabriele, poi ci sono le testimonianze, no? Vive, prima ho citato il libro, ma due amiche di Elena hanno appena pubblicato questo diario, marzo a 21 giorni, Lauser di Bagno di Gavorrano, che poche settimane fa vi ha omaggiato con un quadro per ricordare Elena. Ecco, da padre, tutto questo è rinnovare la tristezza per questa tragedia o è questo ricordo indelebile di Elena che c'è poi nelle persone, quindi è un modo per continuare ad averla vicina? Diciamo, la vicinanza della collettività dove noi viviamo è indescrivibile, cioè ci sono stati vicino, ci stanno vicino, ci staranno vicino per tutto quello che possono fare, ovvio. Rimane un'amarezza ingiustificata e il ritardo che rende ancora più insopportabile la nostra sofferenza, ma il fatto di doverne parlare tutte le volte senz'altro è un dolore che si esterna ancora di più. Vorremmo forse anche tenerlo dentro di noi, perché tanto non riusciamo. Quello che ecco, la forza che ci porta avanti è il fatto di poter portare, far emergere, diciamo, i problemi e cercare un attimo di migliorarli. Certo, però appunto per le altre figlie e gli altri figli d'Europa. Certo. Grazie davvero Gabriele, in bocca al lupo. Ciao, buona Grazie giornata, buona domenica. Grazie. Ciao, ciao. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a tutta la squadra di Radio 24, Guido Scotti oggi in assistenza, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, Danilo Di Trani che ha collaborato alla scrittura del programma. Padreeterni@radio24.it se volete scriverci, radio24.it il nostro sito da dove poter scaricare il podcast. I Padri Eterni di Radio 24 invece la nostra pagina ufficiale di Facebook. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana anche a te. L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao.